era The Chart, ci mancava un pezzo nella sigla. Benvenuti a tutti e a tutti, sono le 17.18, questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche e questa è la puntata numero 9 di The Chart. Ecco, dopo averla annunciata a sproposito la scorsa volta, no, nel senso che pensavo fossimo già avanti in una puntata, ma insomma la nostra ottava puntata è stata una sorta di, per chi non l'ha ascoltato, una sorta di pausa, no? Perché ci siamo date la possibilità e abbiamo dato la possibilità a due ascoltatrici di raccontare invece la loro chart, cosa che invitiamo tutte e tutti a fare. Tutte, non siate timide, mandateci la vostra chart, mettetevi d'accordo con la vostra coinquilina, vostra sorella, vostra madre, perché no, insomma chiunque, qualunque persona con cui abbiate una anche relazione, anche da sola, se volete essere autartiche, la volete fare da sole, da sola. Volendo sì, e appunto costruite un percorso musicale ovviamente fatto di artiste donne, visto che questo insomma è un po' il nostro marchio di fabbrica, e quindi insomma raccontateci una vostra chart, una vostra serie di connessioni. Esattamente, e noi, come invece voi sapete che ci ascoltate già da ormai 9 puntate, non stacchiamo mai la nostra chart, che è una rete che non si ferma mai ma fa solo le bizzarrie di traiettorie da una parte all'altra. E quindi ricordo a tutte che l'ultima chart nostra finiva con PJ Harvey, sì, il pezzo Wang Dang Doodle, esattamente, e invece questa chart di oggi comincia con Anne Boone, To Let Myself Go, la canzone che farò ascoltare. E mentre curiosavo tra ovviamente le innumerevoli collaborazioni di Polly Jane Harvey, e ho trovato tra i credit della sua canzone The Dancer anche Anne Boone, e mi sono incuriosita perché lei è un'artista norvegese e in realtà il suo stile musicale, comunque il suo stile musicale è molto diverso da quello di PJ Harvey, molto più acustico, molto più melanconico e malinconico, molto norvegese diremmo. Si abbina bene. No, non è vero, non sono d'accordo sul melanconico, però è un po' più diciamo sul folk rispetto a quello è che più folk, meno, sì, ci sono molte chitarre acustiche, sicuramente non ci sono i bassi preponderanti o gli arrangiamenti insomma blues roccheggianti di PJ Harvey. E pare che lei la cantasse dal vivo, pubblicata poi in un suo disco che è Live in Scandinavia, e che credo abbia rimaneggiato il testo, perché appunto sta cioè è coautrice, o comunque si è tra i credit vari che sbucano, c'è lei anche insomma accanto a PJ Harvey, quindi penso l'abbia proprio rimaneggiata da qualche parte. Speriamo che PJ Harvey sia contento, si sa mai questi artisti. Insomma, lei ha la PJ soprattutto è un po' strana, un po' strana. E lei ha già 10 anni di carriera alle spalle e circa 9 dischi pubblicati, anche se da noi non credo che sia molto conosciuta, non so, poi almeno questa è l'impressione che ho io ci sono arrivata per vie traverse, ma io scartabello nella musica indie di donne. No, sì, molto, non ha. Cioè non ha una grande risonanza, però è molto piacevole. E questa canzone vi faccio ascoltare è di un disco che è uscito nel lontano 2006, che era il secondo disco. Bellissimo. Bellissimo, che esatto, Temporary Dive, e questo appunto è To Let Myself Go. Myself go to no use taking a step back for me. Eccoci. E questa è Anne Brun. Questo pezzo è bellissimo. Questo pezzo è bellissimo, poi si adatta alle nostre giornate uggiose di questi, insomma, di questa settimana a Roma, di queste settimane a Roma, direi. Ci stiamo, mi stavo dando un disco da Baciù, pioggia sul vetro, mi leggo un libro, c'ho la coperta, non lo so, sulle gambe. Un po' norvegese e svedese, esatto. Visto che insomma Anne Brun, come ricordavi tu, è nata in Norvegia, però si è trasferita in Svezia ed è proprio lì che lavora da tanti anni. E, come dicevi tu, insomma, al suo attivo un po' di album, ha anche formato un paio di etichette con altre artiste. Per esempio, c'è un'etichetta con la quale uscì tra l'altro il suo primo album, che si chiama Determine, che fu fondata insieme a Elle Kari Larsson, che è un'altra artista svedese che fa parte del duo che si chiama The Tiny. E in effetti avevo pensato di far ascoltare, all'inizio mi ero fermata a questa prima connessione, perché The Tiny è un duo violoncello e batteria molto interessante, appunto svedese, che sarebbe stata una connessione carina, ma in realtà non ero soddisfatta, volevo cercare qualcosa di ancora, ormai stiamo andare un po' più lontano in realtà. Pure le connessioni mancate vi raccontiamo. Sì, un po' sì, anche perché volevo andare un po' più lontano, altrimenti siamo rimasti un po' anche in un'atmosfera, come dicevi tu, un po' troppo uggiosa. Quindi sono andata un po' più lontano. Intanto volevo una connessione con Nina Kinnert. Nina Kinnert è la voce, un'artista anche lei svedese, bravissima, bellissima, che ha una voce meravigliosa che si sente spessissimo fare, oltre che i live con appunto Anne Brun, ma anche insomma i controcanti nei suoi dischi. Quindi quella voce bellissima che fa quel controcanto strano in moltissimi dei pezzi di Anne Brun, se vi piace, è la voce di Nina Kinnert, che è appunto una sua amica con la quale ha lavorato per tanto tempo. E lei sarebbe potuta essere un altro aggancio, ma in realtà no. Yeah. In realtà ho detto, vabbè, ok, metto Nina Kinnert, cosa scelgo? E mi sono fermata a guardare un video live, una performance live registrata in un ascensore di Anne e Nina, che fanno una canzone bellissima che si chiama Roots of Heaven. Quindi se volete andate sul tubo e la cercate. Quindi Roots of Heaven, mi sono venuti in mente i Roots, la band degli anni Ottanta, insomma, non so se te la ricordi, all'inizio solo batteria e voce, Questlove, Black Thought. I Roots hanno collaborato con tantissime artiste grandiose nella loro storia, nella loro carriera dagli anni Ottanta in poi, tanto per dirne due tra tante: Erykah Badu e Tune Yards. Qualche tempo fa, appunto, due nomi a caso. Vi avevo raccontato anche la collaborazione di Tune Yards con Questlove, che appunto facevano una cosa insieme su un pezzo classico della musica africana. Insomma, nel 2005, per farvela breve, esce The Roots Presents a Sonic Event, che è un live registrato alla Webster Hall di Manhattan, a cui partecipano diverse artiste, tra cui la rapper Jean Grey, che è appunto il pezzo che vi farò ascoltare. Lei si chiama Jean Grey e il pezzo che ho scelto per voi si intitola Fucker in level 3000. Yeah. 3000. No. Yeah. Yeah. Thanks for coming in, Jane. Okay, Steve. The reason I've got you in here, okay, we've been getting some complaints. Some complaints around here? Around the office about your behavior. My behavior? Yeah. So what I'm gonna need you to do is come in and just talk to me once a week. Uh-huh. Okay. Just about anything you wanna get out. Yeah. Let's just start real simple. Just tell me a little bit about yourself, things you like to do, what's been on your mind. It's a lot, though. So. Yeah. I just... Okay. Dr. Manhattan, tatted Adam, circa tobacco and Goa. Circle tobacco ring lower, I'll murk you black at Sona. My work is black, I got diplomas in the back that are bursting over the sack that I hold them in because the folder was folding over. I know what they've been told ya, but since I'm going in again, it's like drop and bend over, over and over with no lube. That better and better than your schools. Yokels, locals, slow cruise to your demise. Know it in the vocals. I got no coof, no lies. I'm dedicated, focused, opposite of Betty Davis oculars. Waiting for the apocalypse. Draft with a cape in case I get popular so I can drop it, bitch. Yeah, I'm concerned with crotch sticks. I'm concerned with moxie. Take your OxyContin and your rocks. I'm the great Gatsby initials. The case basket epistle. The last greatest apostle. The baddest Amy. The combination of Gladys Knight and the Pips in one place. And a Robert Blake fan. Wild. Keep you in a basement. Wild. Chained to a daybed. With a door blocked. With a Maytag. And at 4 o'clock I let snakes in. I stand in the door. Sipping a tall boy. Cause light. Giggle in your face then. I'm a sociopath. Golden flask. Fill it with gasoline to throw at your ass. Fill it back again with some of your pieces. Your liver, your back, your face, a bit of your penis. Double hands with a W. Better do whatever you can to cover you. Gene Lang came to club you. Pain. Yeah, I'm gonna stop you right there. Yeah, I see that. I see the It appears you seem to have a problem. It's not really a problem. Yeah, it is, though. Nothing. With violence? Yeah. And, potentially something that could get you fired. I'm aware of that. Like what happened last Friday. Yeah. Fuckery level 3000. Some jeans and a green blouse with a crimson stain from a beatdown and a business meeting in a tea lounge. Like, uncle, please sit down. Proceed. Leading out the whole team. Freaking out. Texting each other under the table. I'm off his face calm. Off of face palms. Calm a face bone for after on my .com. Basically batshit. You basic bastard. I'll never pace it. I crave action. I transform. I'm like, I'll save y'all, but then I stay ratchet. I'll bash your face in baseboards of a burning building. With the passion of a pastor passing plates and getting back millions. Dashing a race in abandoned, smashing a tape at the last second. And beckon the children on the sidelines who step in and start blasting. Good job, Stevie. Box Sebastian, a rock mining off a handle playing. When I'm candlelighting a man handling, I'm saying I'm classy. Docking and Sebastian Bach glaring when I mass murder and turn it up to decibels certain to drown out tears. It's nasty. On the Pulaski Bridge, trunk full with a shotgun. Tongue dripping with vodka, dripping on my lap on a map of Alaska. In October, in a black dress, I'm blasting Frank Zappa, the consummate top assassin. The consulate tracking after in, flipping the birds to diplomats. Out the whip with an Andy Richter mask on, cause I passed on getting the sidekick. Cause everybody ain't ready to die for this. I'll drive on dialysis, I'll drive over your dialysis. And keep in mind that I don't even drive, I like challenges. From Santa Dan, a fan of Dan from Roseanne, but not a fan of Prozac. Yeah, I don't care how you find them. Wanna know what I'm like? Fine men. I like fine men. Smart men. Where the fuck do you find them? No, seriously, I'm actually asking you where I can find them. I don't know. I'm into prime and environments that you cry in. I don't imply it, I'll vividly give you my end. You'll think I'm lying, just shivering in a lion's den, in an abandoned zoo, naked, covered with flies, and strapped to Kobe beefsteaks. You don't believe me? For Pete's sake, man, what the fuck do I have to do to convince you I'm the freeway villain? Keep a suffering. I love when people suffering. It feels like I'm on reefer when they're blubbering. I'm serious. I'm FCC's damn problem. At best, CD's man problems. I guess could be the one thing I want to work on. I'm glad that we're getting this work done. Guess I would have never thought to talk, but who knew? And this out could be cool. Now I'm excited about next week. You good, you? You look testy. Okay. Yeah. Yeah, I'm a little bit testy. I see that. I'm going to need you to get out of my office. I'm going to need you to get out of my office. Okay, relax. And then I'm going to need to call the police. Really? I think you need to not do that. Yeah. Yeah, no. No, I think you need to make another decision. No. Calling. I'm going to go. Oh. And you're not going to call the cops. I am. And you're also never going to call me in your office again to talk about this fucking bullshit. Because I will fucking kill you. How did you get over the table? Steve, I will fucking kill you. So fast. I'm not even kidding. I'll fucking kill you. You're so close. Yeah. You're so close. Very close. Mm-hmm. Yeah. You can smell my thoughts. I can. I'll fucking kill you, Steve. All right, then. Okay. Okay. There's some cake in the break room. I'll see you in there. Oh. All right. Bye-bye. Voilà. Fino all'ultima sillaba, però. Era Shangri. Giusto. Sì, era questa artista che è una rapper MC, come si dice, fantastica, insomma, che non ha avuto un grandissimo successo, insomma, per varie vicissitudini sue personali, però secondo me è una straordinaria artista, quindi è stata un'occasione per proporla. Vi ricordo a tutte e a tutti chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, che state ascoltando The Chart, che è la puntata numero 9, che potete anche voi giocare con noi, che trovate tutti i podcast e il modo per giocare con noi sul nostro blog womenchart.wordpress.com oppure sul blog dell'MFLA, che sapete che è mfla@blogs.org. E invece se adesso volete interagire con noi, insultarci, complimentarvi o insomma fare qualsiasi altra cosa, 0649175050 qui negli studi di Radio Onda Rossa. Ora io invece da Jean Gris arriveremo a Judy Holliday. Judy Holliday era un'attrice, in realtà facciamo una trasgressione, però fa parte di quelle attrici che in America sono diventate soprattutto famose a Broadway, e quindi tendenzialmente erano attrici e anche cantanti per ovvi motivi, perché appunto facevano i musical e danzatrici, insomma. E danzatrici, sì, diciamo le attrici a tutto tondo. E come ci sono arrivata? In realtà potrebbe sembrare una connessione bizzarra, ma non ci sono arrivata per una strada, ma ci sono arrivato per un quartiere. Nel senso che ad un certo punto mi sono accorta che Jean Gris aveva stretto dei legami con la crew del Brooklyn Academy, perché come molti sanno, gran parte del hip hop americano, soprattutto che supera i confini e arriva a noi, anche quello forse un po' più mainstream, o in qualche modo più chiacchierato, di cui ci sono fantastico, sparatori, pestare, eccetera. Poi si è Brooklyn, è sempre Brooklyn comunque. Brooklyn è il centro, insomma, dell'hip hop americano. E è un quartiere bellissimo. In realtà ho avuto la fortuna di vedere quella città e sono follemente innamorata di quel quartiere, quindi ci sono varie motivazioni per cui a Brooklyn ho drizzato le orecchie. E giocando su internet ho scoperto come che tutto il mondo è paese, e quindi che il campanilismo c'è un po' ovunque, che esiste un sito, c'è un sito dove sono raccolte le 70 donne più famose nate a Brooklyn. Dai. Sì, è un magico mondo quello che, in cui stiamo. Sì, e quindi c'è questo sito dove ci stanno appunto queste donne famose, sono tante, si va da attrici a cantanti folk a politiche, jazz singer, insomma, tra cui ha attirato la mia attenzione una compositrice che si chiama Betty Comden. Mm-hmm. Betty Comden non è esattamente una qualsiasi, perché pensate che è stata una di quelle che insieme a Green, un sodalizio artistico di lunghissima data e non solo, ha scritto il famoso musical Singing in the Rain. Accidenti. Sempre delle donne che fanno delle cose che poi, quando uno pensa che ci sono, sono tantissime le donne nella storia e nella cultura, è un po' anche quello che proviamo a fare dei chart, è andarle a pescare e tirarle fuori, perché molto spesso magari davanti a poi a ruoli molto più evidenti, come potrebbero essere quelli degli interpreti, delle cantanti o di chi appunto poi ha portato sul palco queste opere, dietro, come abbiamo scoperto per tante canzoni, ci sono alle volte, molto spesso, delle compositrici donne, di cui poche volte sappiamo qualcosa, noi comprese. Infatti The Chart è un modo un modo per acculturarci per prime, certo. Per prime, esatto, è un gioco che facciamo anche per quello, perché è un gioco di scoperta di altre donne, di quello che hanno fatto le altre donne. E lei all'inizio della carriera, insieme a uno qualsiasi che era Bernstein che non è uno che passava di là ma non ve lo dico che cosa ha fatto Bernstein nella sua carriera, ve lo andate a cercare, e insieme appunto a Judy Holliday aveva fondato una delle compagnie che girava. Stiamo parlando del, per capirci, Betty Comden è nata nel 1917 ed è morta nel da poco in realtà nel 2006, mentre Judy Holliday è nata nel 1921, quindi stiamo parlando appunto di poi sono diventate famose intorno al dopoguerra, appena dopo la seconda guerra mondiale. E insomma, in questo primo lei infatti poi addirittura Judy Holliday poi mi ha incuriosito, perché è stata una di quelle che l'FBI è andata a pizzicare per sapere se era o non era comunista, come, quando e perché, ed è finita più o meno nelle liste nere, nel senso che non le hanno completamente vietato di insomma di fare il suo lavoro, quindi di fare l'attrice, ma è stata bandita dalle radio e dalle TV per 3 anni così. Per sospetto comunismo, perché in realtà non c'erano atti che poi la collegassero particolarmente in qualche modo al comunismo, ma per precauzione l'FBI pensa bene questa cosa. E lei è un'attrice che ha avuto enorme successo a Broadway, ha vinto un Golden Globe e varie altre cose, e tra le cose che ha fatto e di un musical insomma Broadway, che era Bells Are Ringing, cioè le campane stanno suonando, e ebbe molto successo, talmente tanto successo che decisero di farne una versione cinematografica, e anche nella versione cinematografica che chiamarono a recitare Judy Holliday, che cantò in duetto con un altro che non è un nome da niente, che era Dean Martin, appunto questa canzone che vi faccio ascoltare, che è Just in Time. But I thought we were gonna go dancing, just the two of us. All right, let's dance. C'è un pezzo di musical. Right here. In the park? No guts? Oh, come on. Stop it! Don't you like dancing? I love it. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I've found my way. For love came just in time, you found me just in time. and change my lonely life that lonely day. Hey, you kids must be professionals. You've been peeking, you little rascal. Oh, shall we show them that little act we used to do in Chicago? Where? At the stockyard. Are you ready? Let's slaughter them. My partner, Millicent Scott. Nothing at all. Watch the arm, it only bends one way. T for two and two for T. Two, four. Where are you going? Over here on the other foot. Wait for me. Not give him everything, okay? All right. Okay. Just in time. You found me just in time. Before you came, my time was running. The sack could play the Palladium or even the Yankee Stadium. I was lost. He was lost. The losing dice were tossed. They were tossed. My bridges all were crossed. They were crossed. Nowhere to go. Oh, my darling, you're here. And now I know just where I'm going. Never a doubt or fear. Now I'm on my way. For love came just in time. In time. You found me just in time. And changed my lonely life that lovely day. Just in time. Just in time. Just in time. E non siete su Radio 3, ma siete su Radio Onda Rossa e state ascoltando The Chart, la nostra puntata numero 9. E questa era Judy Holliday con Dean Martin in una canzone tratta dal musical, anzi dal film tratto dal musical, che era Bells Are Ringing. E noi andiamo avanti nel nostro viaggio anche oggi, che ci porta in realtà tra diversi generi, diverse cose. Se ci pensate, abbiamo iniziato col folk, siamo passate all'hip hop, siamo ritornate al musical. E adesso andiamo in realtà un po' folk e un po' musical. Abbiamo fatto un mix in qualche sì. modo, nel senso che dicevamo prima che bella voce che aveva Judy Holliday, e in qualche modo la sua voce era anche molto particolare, perché leggevo anche delle note sulla sua vita e sulle sue caratteristiche, che la sua voce è un po' querula, un po' particolare, anche perché insomma durante il pezzo poi fa l'imitazione della tromba. Era particolarmente caratteristica insomma del suo personaggio e della sua essere attrice, e quindi evidentemente la scelta anche della doppiatrice in italiano, che nel suo caso era Rina Morelli, che è stata un'attrice e una doppiatrice italiana molto famosa, fu appropriata, nel senso che Rina Morelli cercò anche in qualche modo nel doppiaggio di riproporre le caratteristiche vocali dell'attrice insomma che stava doppiando, quindi un lavoro molto molto impegnativo. Rina Morelli ha doppiato oltre ad aver fatto insomma televisione e teatro per tutta la vita, quindi è un personaggio che in qualche modo dovremmo approfondire noi tutte, almeno per le appassionate di teatro, ha doppiato una quantità sterminata di attrici famose, da Ginger Rogers a Grace Kelly, Bette Davis, insomma ve le leggo così come ce le ho davanti, e tra le varie attrici veramente fantastiche, alcune anche italiane, perché a volte anche le italiane venivano doppiate da altre voci, doppiò anche Doris Day nel film La setta dei tre Kay. E Doris Day è stato il mio punto, diciamo, di partenza, di salto, perché appunto Doris Day, vabbè, la conoscete tutti, insomma, attrice statunitense famosissima, insomma, fa parte di quelle icone degli anni 50, insomma, che hanno lasciato un peso enorme, sì, un'impronta enorme nella storia almeno del cinema americano. E leggevo tra le varie cose di Doris Day molte curiosità. Una curiosità era il fatto che è una delle attrici più citate nella musica, cioè nel senso ci sono tantissime canzoni, che ne so, dei Beatles piuttosto che insomma di altri artisti, adesso non ho davanti l'elenco che mi ero fatta, ma insomma ci sono tantissime citazioni di Doris Day nella musica. E c'è una citazione di Doris Day in un altro, diciamo, musical da cui poi è stato tratto un famosissimo film negli anni 80, alla fine degli anni 70, che è Grease, e c'è la famosa canzone che si chiama I Am Sandra Dee, che canta insomma Rizzo, il personaggio più bello del, secondo me, ma penso secondo tutte, del, insomma, dei personaggi di Grease. Cioè appunto a un certo punto loro si provano delle parrucche bionde e sono in camera da letto tre o quattro di loro, e lei comincia a cantare I'm Sandra Dee, e quindi Doris Day è un'altra citata nella canzone. Sarei potuta rimanere qui perché già bastava e avanzava, però saremmo rimaste troppo dentro il musical, e invece ho pensato di guardare un po' quali erano le reinterpretazioni delle canzoni famose di Grease, famosissime di Grease, fatte magari da altre artiste. E quindi sono incappata, mi sono ricordata di questa bella versione, perché secondo me è molto bella, fatta da Julia Stone. Noi ne sentiremo una versione live acustica di un pezzo, forse uno dei più famosi di Grease, che si chiama You're the One I Want. Lei è Julia Stone. I got cheese, they multiply. Better. quasi riconoscibile. Sì. Se non la conoscessimo così bene, esatto, no? Giusto per le parole, perché a un certo punto ogni tanto la melodia te la ritrovi e dici: oh, questa canzone la conosco. Vabbè, era Julia Stone, ricordiamolo, con una reinterpretazione di una delle canzoni di Grease, che era You're the One That I Want. E io invece, in realtà, come al solito, il cinema torna spesso in The Chart, perché è una di quelle cose che fanno venire in mente. Io vi farò ascoltare Janet Baker, con una che è una mezza soprano, e canta una canzone di Mahler, il compositore. E come sono arrivata al mezzo soprano e a Janet Baker? Quando ho letto che il primo EP di Angus e Giulia, perché loro in realtà sono diventati conosciuti con questo duo, tra lei e il fratello, e adesso non so cosa stanno facendo, perché non ho visto... c'è scritto che stanno lavorando ai loro progetti solisti. Sì, in effetti sì, aspettiamo buone nuove, perché sembra di avere una voce carina. E ho visto che il loro primo EP si chiamava Chocolates and Cigarettes and Artful of Wine. Mm-hmm. E a quel punto a me è venuto subito in mente, non so perché, ma la mente, come sapete tutti, questo è molto interessante, un film che si chiama Coffee and Cigarettes, che io ho visto per caso, mi ricordo, andai a vedere al cinema. Era un film indipendente del 2003, il regista Jim Jarmusch. In realtà non è un film, ma sono 11 cortometraggi legati appunto da questo filo rosso del caffè e della sigaretta, dove dentro c'erano fior fior, tra l'altro, di musicisti, compresi i due fratelli White Stripes, c'era Iggy Pop, c'era Tom Waits, insomma, era una cosa molto molto molto particolare. E nella colonna sonora di questi 11 cortometraggi più o meno racchiusi in un film, l'ultima canzone del disco della colonna sonora era appunto di esattamente quella che vi farò sentire. Era, scusatemi, ho 10 pagine aperte, ogni tanto vi perdo gli appunti. Era sicuramente un pezzo di Janet Baker. No, ma stavo cercando il titolo in inglese, perché sennò ce l'ho davanti, ovviamente in tedesco, per via del compositore, che è Ich bin die Welt abandoned get home, che mi scuseranno tutte le tedesche in ascolto. Noi ce l'ascoltiamo, poi vi do anche la traduzione del titolo. Che bella. Non siete a Radio 3 per la seconda volta, ve lo dico, ma questa è Radio Onda Rossa. Oggi veramente stiamo spaziando qui a The Chart tra È una mezza soprano inglese, nata nel 33, ancora in vita, si chiama Janet Baker. E tra l'altro mi incuriosiva perché ho scoperto che il suo ruolo, tra virgolette, principe, insomma uno dei ruoli che aveva messo di più in scena, per cui ha fatto più spettacoli, è stato Orfeo. Di Orfeo ridice, riecco un'altra donna che fa un uomo. Si vede che nell'opera, probabilmente questa è anche una nostra ignoranza, è una cosa abbastanza frequente lo scambio di ruoli, insomma dipende probabilmente da che voce hai, e siccome per Orfeo probabilmente serve un mezzo soprano, non lo so, così nell'ignoranza immagino. Secondo me ci hai preso. Secondo me ci ho preso. E sì, insomma, lei era, questo era un Mahler e... Era un Mahler, che non è una roba che si prende quando mi fa male lo stomaco, ma era il compositore. Ovviamente il titolo in tedesco ve l'ho detto prima e ve lo risparmio, in inglese è I Have Lost Track of the World, che va un po' già meglio, so che non è proprio il massimo, però va già meglio. In ogni caso, noi ci stavamo, insomma, nel comporre questa lista, a un certo punto è venuto fuori che avevamo sparato, sempre come sapete voi sapete bene, chi ci segue, insomma, ve lo ricordiamo per chi si mette all'ascolto solo da poco, noi non ci diciamo i collegamenti durante la costruzione della chart, ma ci spariamo solo via SMS il pezzo, quindi così out of the blue vi arriva questa proprio questo colpo di pistola che voi poi dovete inserire nelle connessioni. E appunto notavamo che nelle ultime connessioni che erano venute fuori c'erano tutte Jay. Sì, praticamente quasi una puntata solo con Jay. C'era... a parte Anne Boone, Jean Grey, c'era Judy Holliday, Julia Stone e poi Janet Baker. E quindi in qualche modo c'è venuta questa riflessione comune, no? Di alcune J famose che ancora non ne avevamo passato. Insomma, la connessione è un po' labile, però ci permette magari di No, nel senso, non sai, noi in genere facciamo un po' degli approfondimenti. Abbiamo trovato la cantante con le due J. Con le due J, la perfetta. Dai, che secondo J, me anche le ascoltatrici lo sanno. Che è Janis Joplin. Non sentiremo un brano solito, insomma, ma uno di quelli che si sente spesso. Abbiamo preso una registrazione live anche per far sentire la sua vena più blues, più proprio blues delle origini, insomma quello più vero, più nero, anche se lei era una cantante bianca. E su Janis non vi dico ma nulla, diciamo a parte che il soft comfort che si svuotava gli aveva dato una mano per avere una voce blues roca. Più le sigarette che fumava, più vari altro, ma non più tutto il resto, diciamo, che ha accumulato nei suoi 27 anni di vita. E lei il 19 gennaio, insomma, di quest'anno avrebbe compiuto 70 anni, quindi insomma è anche in qualche modo un modo per ricordarla e ricordare il fatto che nessuno può dire che non ama Janis, magari non è affatto un mito della sua adolescenza, però insomma la sua voce ha sempre credo smosso qualcosa in tutte. E ci chiedevamo anche da tempo, a parte The Rose, che insomma è un film di qualche anno fa che era uscito, insomma in qualche modo cercava di raccontare bene o male nel 79 la sua vita, in realtà c'è sempre stato negli anni questa notizia di un'imminente biografia, di un imminente progetto cinematografico che raccontasse insomma la vita di questa straordinaria artista. E pare che l'anno prossimo uscirà un film appunto biopic, dedicato, sì, oggi. Esatto, una, sì, insomma un film che racconta la sua biografia, che dovrebbe intitolarsi Get It While You Can. Dovrebbe interpretarlo una certa Amy Adams, che è più famosa, diciamo, ha fatto anche cinema, ma è famosa per The Office e varie serie TV, e lo dovrebbe girare Lee Daniels, che è il regista, ve lo ricorderete sicuramente, del film Precious, che insomma è un bel regista e che ha raccontato anche delle storie belle toste. Quindi insomma ci ascoltiamo questa registrazione live un po' sporca, ma mi sembrava il modo migliore per ricordarla, di Janis Joplin, e il pezzo si intitola No Reason for Living. I'm una registrazione molto rara questa, insomma, non facile da trovare. Io ce le ho tutte. a parte nel senso che credo di essermi svenata in adolescenza per comprarmi dischi di Janis Joplin. Tutte le tue paghette. C'ho quasi tutto. C'ho tutte le rarities in un cofanetto dove lei che fa pure gli auguri happy birthday sulla piastra registrare, non mi ricordo chi, cioè, c'ho qualsiasi cosa. Però credo a John Lennon, sì, è vero. Che tra l'altro lo ricevette quando lei era già morta. Sì, sì. Tanto per creare un po' di storia della musica. Janis è Janis, comunque non c'è niente da fare. Io devo dire che devo ringraziare un'artista italiana se ho scoperto Janis Joplin, comunque in ogni caso. Sì. Che è esattamente un'altra volta la connessione un po' sono io, un po' sono loro, nel senso che io metterò John Lennon con Me and Bobby McGee, che non è altro che una canzone che ha cantato Janis Joplin nel suo disco. E quando io comprai appunto il disco di John Lennon con questa canzone dentro, in qualche modo mi incuriosì talmente tanto questa la storia, poi mi andai a cercare chi fosse Janis Joplin, e da lì fu amore folle per lei, e quindi mi sembrava, anche se poi Gian Lannini ha pagato mille volte il suo tributo a Janis, l'ha detto centinaia di volte di essere stata quantomeno in gioventù, perché stiamo parlando qua del 76-77, quindi ormai svariati anni fa, quando lei iniziò la carriera, se ne andò via da Siena, dalla pasticceria del padre, eccetera, dove ci aveva perso una falange, e andava a suonare nei posti a Milano il pianoforte, insomma, quella è storia un po' così. La fai sembrare una storia triste, insomma, eh? No, è una storia allegra, guarda che caspita di carriera di 40 anni che poi è riuscita, insomma, a costruirsi, quindi un artista di tutto rispetto, forse ultimamente ci ha anche stancato, ma dobbiamo dire che noi l'ascoltiamo da tantissimi anni, anche diciamo all'MFLA, ovviamente nelle playlist non è mai mancato. E ci ascoltiamo però questo pezzo, questo primo disco che fece scalpore con lei, giusto per raccontare un po' di cose diverse. La copertina, c'era la Statua della Libertà con in mano il vibratore, nel vibratore era la bandiera americana, e poi c'era questo pezzo America, ovviamente metafora della masturbazione, insomma, da giovane ha avuto il suo perché per tante anche di noi, per vari motivi. C'era questa canzone che chiudeva il disco e si chiamava Lei. Poi lei ha negato la qualsiasi cosa, noi quando facevamo Spirito di Patata era una di quelle cose che chiamavamo al coming out ufficiale finalmente per tutte, ma non l'ha mai voluto fare, e che era chiaramente l'amore tra due donne, non solo, cioè, il disco comunque incisa, la canzone eccetera eccetera, comunque insomma questa è la nostra controversa artista italiana. Quindi rinnoviamo l'invito per Gianna Nannini a smetterla con questa storia che ha stufato tutto, nessuno ci crede più, soprattutto da tempo immemore, nemmeno lei più, no, esattamente, nemmeno lei. Comunque Me and Bobby McGee. Si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra i rami il mondo sembra aprirsi e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più, no. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. conosco da sempre Bobby McGee. Dall'odore dei campi al risveglio della terra, il vento è una carezza nel respiro. È come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. E fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. Per la prima volta qui, ma lo conosco da sempre, Bobby McGee. Na na na na na na. Ce la lasciamo di sottofondo nella coda della canzone. Questa è The Chart. Siamo già in ritardo perché sono le 18:17, anzi appena scattato qui in regia, 18:18, sta per iniziare Atti e Misfatti, ma noi stiamo per finire il nostro viaggio di oggi. Ultimo passaggio, intanto ricordiamo womenchart.wordpress.com per leggere la playlist, ascoltare il podcast, partecipare con la vostra chart, curiosare, perché mettiamo il link dei film, degli spezzoni, mettiamo di tutto. Basta, lasciamo solo questo, quindi ricordatelo, womenchart.wordpress.com. Intanto io arrivo da Gianna Nannini, che non fa parte del mio bagaglio, diciamo, musicale, devo dire, però il bello della chart è questo, che ci si confronta. Arrivo a Susan Vega, che è appunto un'artista di Santa Monica, fantastica, meravigliosa, anche lei insomma con un passato glorioso, e in qualche modo negli ultimi anni si è sempre più diradato la sua presenza sulle scene. L'ultimo suo lavoro risale a 7 anni fa circa. E qual è la connessione tra le due? In realtà hanno suonato tutte e due al Montreux Jazz Festival, che si tiene in Svizzera, insomma è un festival famosissimo, sì. Veramente importantissimo, uno dei più prestigiosi d'Europa, si tiene dal 1967 e appunto sulle rive del lago di Ginevra, e a questo festival hanno partecipato fiori e fiorelle di artiste, che ne so, Ella tanto per dire una, Nina tanto per dirne un'altra, non vi dico manco i cognomi, insomma veramente artiste straordinarie nella storia, tra cui evidentemente anche Gianna Nannini e poi Susan Vega. In realtà appunto Susan viene fuori anche dal fatto che una delle alcune delle più importanti performance che si tengono insomma a questo festival poi vengono registrate e diciamo riproposte in dei DVD, che sono insomma alcuni dei quali sono veramente molto belli da avere, da guardare, e uno di questi appunto è quello dedicato al concerto del 2004 2004, credo, di Susan Vega, quindi di qualche anno fa. Io ne approfitto anche per dirvi che è uscito ieri il suo nuovo lavoro per la sua casa di produzione, che si chiama Amanuensis Productions, ed è appunto il suo 8° album. Quindi insomma io vi faccio ascoltare anche qualcosa in anteprima, qualcosa di nuovo che in qualche modo ci possa stuzzicare ad andare a cercarlo, andare a prenderlo. Lei è Susan Vega e il pezzo si chiama I Never Wear White. E invece questa era The Chart e noi ci risentiamo fra 15 giorni. Susan Vega, e alla prossima. Ciao, a presto. La responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... Ah, lo sapevo. Ho sempre immaginato... Ma te l'avevo già detto! No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra...